Mix 24 di Giovanni Minoli. Titoli garantiti da ipoteca, mutui subprime, tranche. Vi annoia mortalmente? Vi fa sentire stupidi? Wall Street usa termini che confondono per farti credere che solo loro possono fare quello che fanno. O meglio ancora, allo scopo di non farsi rompere le palle. Poi però i mutui da metterci dentro si sono esauriti. Così allora le banche hanno cominciato a riempire le obbligazioni con mutui sempre più rischiosi. In questo modo tenevano gravida la macchina dei ricavi, chiaro? L'avidità. Non trovo una parola migliore. È valida. L'avidità è giusta. L'avidità funziona. L'avidità in tutte le sue forme. L'avidità di vita, di amore, di sapere, di denaro, ha improntato lo slancio in avanti di tutta l'umanità. Benvenuto nella nostra felice famiglia di correntisti. Ridammeli, ridammi i miei due pelli. Buongiorno, bentornati a Mix 24. Il caso Boschi naturalmente impazza dopo l'uscita del libro di Ferruccio De Bortoli, in cui si fa riferimento a una presunta richiesta di interessamento della Boschi, allora ministro, nei confronti di Ghizzoni, ex amministratore delegato di Unicredito, per un'eventuale acquisizione di Banca Etruria. De Bortoli ieri ha dichiarato di essere certo delle sue fonti, ha detto che la Boschi però non si deve dimettere, la Boschi minaccia querele e Ghizzoni per ora tace. Ecco, Gianluigi Paragoni, giornalista, conduttore della Gabbia sulla 7, autore del libro Gang Bank. Paragone, tu hai intitolato il tuo libro Gang Bank, che è un titolo molto forte, ma cosa sarebbe questa gang di cui parli? Ma la gang è quel meccanismo che consente all'1% del mondo di detenere il 99% delle ricchezze, è quel sistema che garantisce ai manager delle retribuzioni che sono sproporzionate decisamente anche rispetto ai risultati delle loro performance aziendali. Ma di questa faccenda della Boschi che idea ti sei fatto? Che c'è un conflitto di interesse, che sul sistema bancario il centro-sinistra deve essere più chiaro, Renzi anche, mi ricordo anche un pranzo con Goldman Sachs per MPS, quindi c'è un groviglio che ha bisogno di chiarezza. Beh, un pranzo che però poi non è andato a buon fine, perché Goldman Sachs non è entrato nel Monte dei Paschi, come ti ricordi? Sì, no, vabbè, insomma. No, ma per dire le cose come nascono e poi come arrivano, perché bisogna essere completi nell'informazione. Il tuo libro è una denuncia spietata del mondo delle grandi banche. Non è un po' forte come titolo, però? È bello, ma è forte. Ma guarda, Federico Caffè li chiamava gli incappucciati della finanza, quindi c'era un certo odore di massoneria, no? Almeno come logica di fondo. Senta, un punto di vista diverso, molto insolito il tuo, da dove sei partito come riflessione? Dalla raccolta delle pubblicità, vedevo che tutto era possibile a rate, che nel momento in cui c'è una contrazione dei salari ci sono tantissime sirene che ti offrono soldi, prestiti, tutto a comode rate, tutto con il sorriso, ma questa vita ci porterà, c'è un rischio di portarci al fallimento. Senti, però l'indebitamento privato in Italia è uno dei paesi meno indebitato, cioè il problema del debito pubblico, non di quello privato, prevalente. Sì, ma i dati purtroppo dicono che la curva di indebitamento privato delle famiglie continua a crescere. Noi non eravamo abituati all'indebitamento privato. Soltanto negli ultimi anni abbiamo una curva di crescita dell'indebitamento privato che è sproporzionata rispetto alla nostra tradizione. Senti Paragone, ti chiedi perché la gente nel tuo libro è caduta la linea? Abbiamo perso Paragone. Abbiamo perso Paragone. È interessante perché è un libro, comunque un libro controcorrente, abbastanza una voce fuori dal coro, e quindi come tale è importante dargliela la voce dal coro. Però vediamo se riusciamo a recuperarlo in regia, si fa il miracolo della telefonia. Saranno stati gli incappucciati. Ce l'abbiamo, ecco. Va. I incappucciati sono intervenuti, Gianluigi. L'hai appena evocato. Senti, tu nel libro ti chiedi perché la gente non sopporta i politici, però sopporta banchieri e finanzieri. Perché secondo te? Perché non sanno tutto, perché non hanno ancora capito il grande inganno che c'è dietro. Nel momento in cui avessero le informazioni complete sui danni del sistema finanziario, forse aprirebbero gli occhi. È più facile prendersela con l'auto blu dei politici. Certo, naturalmente, quella si vede. Che non tutto il resto. Senti, tu dici però che le prove dell'intreccio tra finanza e politica sono le porte girevoli degli incarichi, e questo può essere vero, però i nomi sono noti, non c'è l'occulto lì, non c'è il mistero. Ma non c'è più nulla di occulto, quando ne parli, le prese in giro sono colossali, che te ne mettono in pubblicità, che cosa deve tenere occulto? Però attenzione, qualcosa di segreto c'è ancora. Tu hai saputo qualcosa in merito a quanti contratti derivati ci sono nei bilanci della pubblica amministrazione italiana? E non dico soltanto il governo centrale, ma addirittura i piccoli comuni? No, perché quindi devono tenere occulto? No, un po' si sa che ci sono, Si è saputo perché siamo andati a pagare e a chiudere un contratto derivato, e allora grazie ai giornalisti stranieri abbiamo avuto le prime informazioni. Idem per il TTIP, è mai possibile che in un'epoca in cui la Boldrini fa la commissione sulle fake news i parlamentari erano tenuti al segreto di questioni importanti come il testo del TTIP? Io penso che queste cose siano importanti da capire, da sapere. Senti, tu dici che gli sprechi della pubblica amministrazione sono sotto gli occhi di tutti, e questo è vero, però i miliardi che ci costa salvare i disastri provocati dalle banche con i loro algoritmi, lo leggiamo in continuazione, restano lontani dalle critiche, e questo è vero. Ma c'è anche una responsabilità di chi investe, però, e non si informa. Non è che per forza uno deve essere ignorante. Guarda, lo stesso meccanismo per cui si colpevolizza il giocatore alle slot machine. Quando il mercato delle slot machine investe in pubblicità più di qualsiasi altro settore, poi non interroghiamoci e non stupiamoci se i giocatori del gioco d'azzardo aumentano. Quando tu aumenti il desiderio, lo fai aumentare attraverso magari... Sì, ma consideri l'uomo però un imbecille che non ha capacità di decidere. Nel momento in cui c'è una crisi economica, e questo lo dice qualsiasi studio sociologico importante, nel momento in cui cerca di trovare dei soldi da qualche parte. Sei facilmente più attratto. Sì, questo può darsi, certo. Senti, però il cittadino in generale ha imparato piano piano, lentamente, a scegliere quando compra. Perché in questo settore però comunque si informa poco o nulla? C'è anche una responsabilità oggettiva. Guarda, diciamoci la verità, il meccanismo linguistico per cui ti rendono tutto facile nel titolo e difficile nel testo è il meccanismo del nuovo marketing. Siamo d'accordo, però io mi chiedo essere laureato in chirurgia sottopormi a un intervento chirurgico. No, ma questo siamo d'accordo, però su questo siamo d'accordo, però estremizzare poi le posizioni non aiuta a capire bene, perché che ci sia un'esigenza di maggiore informazione in una società nella quale la finanza ha un ruolo più importante, credo che sia un dovere anche da cittadino, che poi chi vende cerca di venderti quello che ti vuol vendere, vabbè, d'accordo. Allora, se la banca non è più il soggetto che tutela il risparmio, ma diventa finanza pura, tu entri in banca e sembra di entrare in un centro commerciale di prodotti finanziari, non hai bisogno e non puoi neanche seguire questi meccanismi che evolvono e si trasformano continuamente. Purtroppo noi ormai siamo dentro dei meccanismi di prodotti finanziari che sono studiati ad arte per cambiare pelle continuamente. Cioè, i derivati. Tu dici fammi capire, tu dici sostanzialmente non si può capire. Impegna non può capire. Scusa, e addirittura il capo degli economisti britannici ha detto ormai siamo come meteorologi, non ne azzecchiamo più una da decenni. Ah, questo credo che l'hanno azzeccata raramente gli economisti, allora, le previsioni. Tu, gente avida di denaro, di potere, sta nel concreto impoverendo l'Italia e gli italiani, solo che non vanno ai talk e quindi non si conoscono. Chi sono? Chi sono? Dimmi nomi e cognomi. Non è un problema italiano, è un problema globale. No, però per parlare, dato che tu sei uno che parla chiaro, dimmi chi sono. Ma questi che non vanno ai talk, che sanno l'italiano ovviamente, perché sì, sennò sono inutili. Sono i detentori della finanza, tutti. Ma mi fai qualche nome? Marchionne, al di là di Fazio, l'hai mai visto in una trasmissione politica in cui si ragiona di debito pubblico? No, di debito privato? L'ho visto a Trento, al Festival dell'Economia di Trento, l'ho visto in diretta. Si possono apparecchiare, tu però mi hai chiesto perché non vanno nei talk, io faccio dei talk. Quello era un talk, l'ho visto da Fabio Fazio, poi non l'ho visto da altre parti. I banchieri li vedi soltanto quando sono iper tutelati nelle loro interviste studiate con gli uffici stampa. Poi ci lamentiamo, ma il Movimento 5 Stelle vuole l'intervista da solo, quel politico tizio voleva. Sì, ormai almeno vengono due domande che possiamo ancora fare. Mica tante, come sai, anche i 5 Stelle scelgono il come. Proprio. Scelgono il come. Appunto. Ma perché Passera, prova a chiamarlo adesso per dirgli facciamo un bel resoconto su, adesso che Passera non è più al centro del potere, sui 300 milioni su Alitalia. Io pensavo sui 300 milioni promessi, miliardi, 300 miliardi che aveva promesso se avesse vinto lui le elezioni. Senti, tu metti sotto accusa in modo chiaro, forte, il neoliberismo, anche soprattutto quello esasperato. Però se andiamo a vedere cosa succede in paesi di matrice socialista come il Venezuela oggi, insomma, si muore di fame, non ci sono le medicine, non è che è tanto meglio, cioè trovare il meglio è complicato. Trovare il meglio è complicato, noi però vivevamo in un sistema di equilibrio, noi sì. L'indebitamento privato che abbiamo oggi non ce l'avevano i miei genitori e i miei nonni, certo. Perché tutto il sistema era misurato. Noi, guarda, ti dico una cosa, noi continuiamo ad ambire ad essere qualcos'altro. Il modello italiano, dal welfare all'impresa, funzionava, era il modello del piccolo, era il modello sì. Ma dimmi una cosa, viva la Democrazia Cristiana, stai dicendo, rimpiangiamo quegli anni, no, appunto, dato che fai riferimento ai tuoi genitori, ai tuoi nonni, in quel periodo lì erano loro che comandavano, avevano una visione equa e solidale dello sviluppo, mi stai dicendo? Assolutamente sì, viva la Democrazia Cristiana, viva il Partito Socialista, perché c'era un Partito Socialista, viva il Partito Comunista, viva un Partito Liberale che era confinata alla percentuale. Perché la gente non lo votava, non è che erano cattivi. Perché era elite, l'elite poco. Senti, mi dici un'ultima cosa, tu dove ti fai versare il tuo stipendio, su che banca? Adesso sulla Mediolanum. Sulla Mediolanum. E hai fiducia nella banca dove hai il conto corrente? Lì ti fidi? Fino a che non mi girano le balle. Ma ti fidi? Per adesso ti fidi? Per adesso mi fido. Gli dico un giorno, una settimana sì, una settimana no. Ma che tasso ti danno? Che tasso ti praticano? Mi fanno lo 0,50. Ma hai mai investito i risparmi in fondi, azioni, comprato titoli di Stato? Azioni no. Titoli di Stato? Titoli di Stato sì. Cerchi di stare dentro questo mercato. Sono per nulla innamorato. La mia inquietudine come correntista è forte. Poche banche hanno voglia di avermi come cliente. Senti, concludi il tuo libro dicendo l'ultima domanda. Ripartiamo da noi. È bello dirlo, ma cosa vuol dire per te? Ripartiamo dalla Costituzione, perché la Costituzione è l'unico perimetro entro il quale possiamo starci tutti. Grazie Gianluigi Paragone, Good Bank, Mario. Gag Bank, scusa, no, Good Bank. Good Bank, quella ne parleremo era tra un po'. Un'altra cosa, senti. No, però, comunque, un punto di vista. Un punto di vista anche diffuso. Gianluigi è molto abile nel raccontare, nello sfruttare giustamente da giornalista, da scrittore, questa ondata. Comunque, no? Stimola con chiarezza una riflessione. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Gli italiani hanno detto, Lemon, tieni i nemici più vicini degli amici. Non hanno mai vinto una guerra, né prodotto mai un'auto decente, ma di certe cose ne capiscono. Ecco, a pronunciare questa battuta affettuosa, diciamo, nei confronti degli italiani, ma più probabilmente con riferimento alla Fiat titolo americana di Marchionne, è l'attore americano Alec Baldwin, nei panni del boss di un network televisivo nella serie TV 30 Rock. Stereotipi, fraintendimenti linguistici, barriere culturali, passi si succede nei film o nelle serie televisive di Hollywood. Ma se invece dobbiamo fare affari, quanto contano le differenze culturali? Ecco, negli ultimi anni si è fatta strada una nuova disciplina, la business anthropology, che aiuta quelle aziende che vogliono conquistare mercati esteri a evitare errori e figuracce quando si deve negoziare un contratto, gestire dipendenti, rivolgersi alle autorità di quel paese. A parlarci di questo nuovo trend c'è qui con noi oggi, lo saluto, Luca Martera, documentarista tra Italia, Cina, Stati Uniti. Ecco Luca, ma non sarebbe sufficiente che gli imprenditori fossero più preparati? Beh, su questo non c'è dubbio. In effetti, a sentirla solo nominare, questa business anthropology può sembrare una delle tante tecniche di marketing alla moda a cui fanno ricorso quei consulenti e agenzie per acchiappare nuovi clienti. Ma in questo caso c'è dell'altro. Cioè, puoi farci qualche esempio? Sì, restiamo negli Stati Uniti. Per il fatto che conosciamo la loro lingua più o meno e la loro storia sempre più o meno, pensiamo di conoscerli bene, però non è proprio così. Il loro è un mercato basato sulla concorrenza, sul rispetto dei brevetti e la tutela del consumatore, quindi bisogna sempre stare attenti al rischio di cause legali, e tant'è che questo ha portato negli ultimi anni a una sorta di sorveglianza di tipo orwelliano in tutti gli ambienti lavorativi, per il timore che ci sia sempre un dipendente agguerrito che, o un cliente, naturalmente un utente consumatore, che con il minimo pretesto possa trovare il cavillo per fare causa. E quindi per tentare di arricchirsi, insomma. Quali differenze ci sono nell'ambito della cultura aziendale americana riguardo al rispetto, per esempio, degli orari, delle gerarchie? Beh, sicuramente la prima differenza è che quando si fa una riunione e non si finisce entro l'ora prestabilita, si rimanda un altro giorno, non è che la si tira per le lunghe come in genere si fa in Italia, si rispetta la tabella di marcia, gli orari, insomma. Se il capo dice qualcosa di sbagliato, ti puoi permettere di farglielo capire durante la riunione, questo non è certo un'offesa. Poi c'è la cosiddetta integrity, cioè l'etica aziendale. Ad esempio, un manager deve sapere quando prendere le distanze da un dipendente che gli si rivolge con troppa piaggeria o ruffianeria, perché questo poi gli si ritorce contro. La pianificazione poi è molto importante, le scadenze naturalmente vanno rispettate, se dici una cosa deve essere quella, altrimenti vieni marchiato per sempre con il bollino ingiurioso di flip-flopper, cioè uno che salta di qua e di là. E in questo senso gli italiani devono un po', come dire, imparare. Poi c'è l'abilità, il lavoro di squadra, lavorare in gruppo è fondamentale, non c'è il paternalismo dovuto alla conduzione familiare. Un esempio banale: manager e dipendenti mangiano allo stesso tavolo in mensa e possono parlare democraticamente allo stesso livello quando gli pare. Da noi c'è ancora, dall'università all'azienda, questo tipo di gerarchia. Ecco, ma perché è diversa l'etico del successo tra americani e italiani? Qui, come diceva Totò, siamo alle antilopi, cioè agli antipodi. In Italia il successo viene in molti casi punito, non ti viene perdonato per un senso di invidia, di disfattismo. Negli Stati Uniti c'è il concetto della torta che mette a disposizione fette per tutti. Quanto più cresci, questa torta diventa più grande e quindi non c'è bisogno di tagliare quelle fette in una maniera definitiva, e quelle quote fette devono rimanere per sempre. In molti casi succede questo in Italia con quella logica di cartello che conosciamo, che può essere applicato a tante realtà aziendali, delle assicurazioni alle televisioni. Ecco, questo però sono esempi di differenze culturali, la lista potrebbe continuare, però il gioco si può fare anche al rovescio. Quanto sanno realmente di noi gli americani? Intanto, stando sul pezzo, stando a quanto dice sempre l'attore Baldwin, di questi tempi ancora più popolare negli Stati Uniti per l'imitazione di Trump che ha fatto al Saturday Night Live, ecco, che ci regala questa battuta sugli aeroporti italiani. Sentiamo Baldwin. Nel mercato immobiliare di Manhattan non ci sono regole, è come il check-in in un aeroporto italiano. Beh, battuta a parte, la business anthropology serve anche a superare gli stereotipi quando si è al tavolo degli affari, oppure no? Ci sono ormai nuove professioni, degli specialisti che sono molto richiesti al momento a Silicon Valley, perché la globalizzazione impone strategie sempre più raffinate di comunicazione, promozione e marketing. L'esatto contrario dell'ultimo spot della catena americana Kentucky Fried Chicken, che ha realizzato la cizza, cioè chicken pizza, una pizza con contorno a base di pollo, cioè una roba, con uno spot ambientato in Sud Italia. Introducing the new KFC Cheetza, with a zinger chicken base and delicious pizza toppings, it's better than pizza. To prove it, we've come to Italy to see how much real Italians love it too. Cizza! Cizza. Stupido! Batti! Oi, non m'offendere. Non offendere il mio paese. Andate via. Tu mi vieni a raccontare queste cretinate? Ma che vogliono questi? Andate, paghi, paghi, fagalè! È una cosa più stupida che abbia mai sentito. Chi è quel deficiente che si è inventato questo abominio? Contro le regole della famiglia. L'ha detto però che, naturalmente, l'Italia vista dagli Stati Uniti non è solo quella degli stereotipi di Hollywood, questo spot ne è una prova, ma c'è anche quella per cui invece siamo apprezzati molto, cioè il made in Italy, il cibo, la moda, l'arredamento. Aggiungo però che spesso siamo noi a confermare certi stereotipi e di qualche settimana fa, come si dice in gergo, l'epic fail, il fallimento epico dei responsabili della comunicazione del comitato organizzatore del G7 a Taormina, che ha mostrato in anteprima l'app governativa che mostra un giovane con la coppola accanto a una ragazza che gli sorride timidamente, praticamente è l'immagine di Michael Corleone con la sua moglie siciliana nel Padrino, sì. E questo per il G7. Sì, non era proprio, mancava il mandolino, ci siamo. Chi fa imprenditore ormai lo sanno già che il mercato cinese è il mercato del futuro, quindi non sto io a andare a convincere gli imprenditori di andare a investire in Cina. Se aspetto io che vado a convincere loro, io vedo che questo non è un imprenditore. Ecco, questo che avete sentito è Steve Lu, un giovane imprenditore italo-cinese di successo che organizza ogni anno a Venezia il concorso di bellezza Miss China Italia. Luca, ecco, cosa devono imparare invece gli imprenditori italiani che vogliono andare a fare affari nella terra del dragone? Beh, intanto che la Cina la chiamiamo solo così noi occidentali, perché la traduzione di Cina in cinese significa regno di mezzo. Questo pone degli seri interrogativi, certo, sull'etnocentrismo occidentale, certo. Solo loro che si ritengono, no, il centro del mondo. E in questo caso siamo noi che ci dobbiamo adeguare se vogliamo affari, certo. Però è una storia antica, perché l'arte del maneggio, poi tra l'altro questa è una parola di veneziana da cui discendono le parole management e manager, in Cina è antica quanto la nostra. Quando si fanno affari con loro si deve tener conto di vari aspetti e rischi. Oltre alla barriera linguistica ci sono il rischio di violazione del copyright, la complessità della burocrazia e la difficoltà di ottenimento nelle licenze. Ecco, però ancora più insormontabile della difficoltà con la lingua, che è già molto alta, sono anche le differenze culturali. Si pensa, sbagliando, che l'etica del lavoro in Cina mortifichi la creatività, il genio, il talento, così come li concepiamo noi. Ma le cose stanno così veramente? Beh, ai cinesi non piace l'enfasi, rimanendo fedeli in questo senso al precetto confuciano: mastica amaro e sopporta la dura fatica. I primi anni nelle aziende prevale la cosiddetta cultura del materasso, cioè dormire nel posto di lavoro, perché fin quando non decolla l'attività aziendale non devi avere un vantaggio sulla concorrenza e quindi devi lavorare duro. I lavativi, questo è interessante, sono disprezzati, tant'è che esiste un modo di dire un po' curioso. Può esserci anche un proverbio corrispondente italiano: sei come un raviolo brasato attaccato alla padella, praticamente attaccato alla poltrona, un perdigiorno nulla facente. Questo porta a fondere anche vita privata e vita lavorativa, ovviamente, perché gli orari sono quelli, e tant'è che non si ha timore di condividere con il proprio datore di lavoro i propri problemi a casa, con la moglie e i figli. Tutto proprio si condivide. Ecco, ma quanto ai rapporti con le aziende straniere invece? Non avendo un codice civile e commerciale così come lo intendiamo noi, come ci si regola in genere? Questo è l'aspetto più delicato e sconcertante per gli occidentali, non solo gli italiani. Le negoziazioni in genere continuano nel tempo e i contratti firmati non sono mai definitivi. Questo perché è in ossequio al metodo taoista ed è un apparato di regole che deriva dai codici militari, dall'arte della guerra di Sun Tzu, che tutti conoscono, citato anche da Gordon Gekko in Wall Street, ai cosiddetti 36 stratagemmi del trattato militare composto in epoca Ming, per arrivare poi ad una strategia dei 24 caratteri elaborata da Deng Xiaoping, capo di stato cinese. Per esempio? Osservare con calma, trattare gli affari senza fretta, nascondere le proprie capacità e aspettare l'occasione propizia, mai rivendicare la propria leadership, essere bravi nel mantenere un basso profilo. Questo non è solo un balletto artificioso di buone maniere, perché serve a stabilire la cosiddetta relazione, la guangxi. Questa è una parola chiave dell'abbecedario aziendale cinese, cioè qua, al primo incontro, se uno ti chiede come stai, com'era il clima quando sei partito da Roma e Milano, per quale squadra tifi, se tu malauguratamente rispondi in maniera superficiale, andiamo al sodo subito, no, devi avere molta pazienza, perché devi stabilire una relazione, ma quella relazione è per sempre. Quindi è importantissimo come ci si presenta. Ecco, su questi argomenti complessi, interessanti, anche abbastanza inediti, tu stai sviluppando il progetto per ricavare un documentario, se ho capito bene? Beh sì, perché... da offrire alle aziende in qualche modo, modelli di comportamento. Sì, esistono sicuramente manuali specialistici, ma dedicare un racconto per immagini a queste differenze culturali, ad esempio per siglare un contratto in Cina, dimenticavo, non ci vuole la stretta di mano, ma a volte è anche sufficiente un rutto liberatorio. Ah sì? I cinesi non Nello si tengono... stesso tempo non basta firmarlo, perché come ci hai spiegato è un work in progress. Sì. Un contratto non finisce mai la firma. No. Spiegare tutto questo per immagini e quindi far capire agli italiani quali sono le cose che devono fare e non fare, soprattutto quando ci si accosta a mercati profondamente diversi come quello cinese, ma anche, ripeto, americano, poi indiano, naturalmente giapponese, brasiliano e messicano anche. Ma tu vuoi fare un vademec, un documentario, cosa stai cercando di fare? Sì, mi piacerebbe trovare interlocutori tra quelle stesse aziende italiane, non certo i brand. Cioè le aziende, i brand, i grandi brand che ti facciano da produttori per un lavoro di questo genere. Quelli non ne hanno bisogno, i grandi Ferrero, Barilla, eccetera, perché sono già brand ambassador, ma ci sono tutta una serie di aziende italiane dell'eccellenza, appunto delle 3F, food, fashion, furniture, più componenti meccaniche, che a volte hanno timore di accostarsi a mercati ampi perché non sanno come si fa. Mostrare appunto un vademecum iniziale, quindi i miei partner sarebbero queste aziende che vorrebbero farlo, studi legali naturalmente, consulenti di... E hai già un produttore per questa cosa o no? Stai cercando? No, lo sto cercando appunto tra... Vabbè, magari chi ti ascolta potrebbe essere interessato. D'accordo, buon auguri e buon lavoro. Grazie. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS pubblicità. Mix 24. Allora Mario, eccoci. Dove andiamo con la tua bolla? Ma dunque, stiamo in Italia, ma facciamo un percorso ideale su quello che sulle banche. Un po' di musica. Se rinasco faccio il musicista. Sì, ma secondo me lo faresti bene. Ma non lo so, però sicuramente... Ma suoni o canti, cosa fai? Mi piace cantare. Ti piace cantare? Okay. Suonare, no, ho studiato grammatica della musica, Otto Caroli, però non... Non allora, ho mai avuto la pazienza dello strumento. Andiamo in banca. Andiamo in banca e... Dunque, allora... È una storia un po' strana, però strana come tutte le storie italiane. UbiBanca ha preso al prezzo simbolico di un euro, accordo perfezionato ieri, Banca Marche, Banca Etruria, Carichieti, insomma le tre banche che avevano avuto la cosiddetta risoluzione, cioè erano fallite sostanzialmente nel 2015, ricordiamo tutti una corsa per evitare l'applicazione, tra l'altro, del bail-in, sarebbe stato il primo caso, e insomma dalle ceneri di quelle banche, poi sono nate le cosiddette good bank, che tanto good però non sembrano. Non sembrano, perché voglio dire, se tu poi fai già sapere nel piano industriale, nel caso di UBI, che devi licenziare tagliare, vogliamo usare questo termine, non licenziare, ridurre, vogliamo usare quest'altro termine, esuberi, vogliamo usare, sai, l'invenzione linguistica è infinita in questi casi, però vanno a casa 1569 persone entro un paio d'anni nel 2020, cioè il 32% della forza lavoro, del personale. Ti devi chiedere quanto good sono, quanto profittevole è, quanto profittevoli sono, quanto sono solidi. Anche se il sistema bancario va in quella direzione inequivocabilmente, non ci sono dubbi, no. Era necessario anche salvarli, aggiungo. Purtroppo, i sportelli sono alla fine. Purtroppo, pensa il caos che ha creato, sono tre banchette che nessuno avrebbe, e guarda il caos anche politico che è venuto fuori. L'altra cosa secondo me interessante da guardare in parallelo e addirittura più interessante è l'evoluzione di quello che accade nel Fondo Atlante, che sapete tutti è stato creato per aiutare il sistema bancario, è un veicolo finanziario di fatto, che si è preso 2,2 miliardi di valore facciale, quindi non è quello poi espresso realmente, che invece è di 713 milioni. Cioè ha preso 2 miliardi di sofferenze. Esatto, ha preso 2 miliardi di sofferenze valutate tale, quindi pagate quel prezzo. È un prezzo alto secondo gli operatori del mercato, perché parliamo comunque del 32,5%. Quindi bisogna vedere poi quando tu... Quanto ne recuperi, dipende da un sacco di fattori, per esempio i tempi di recupero stesso, come va il mercato e così via. L'altra cosa interessante sarà... A tempo debito, io come sempre dico pazienza, no? Deng Xiaoping, come nell'intervista prima, ci vuole una grande pazienza, poi il tempo è galantuomo e la verità arriva. Vedere i costi di tutta questa operazione, i costi reali, comprese le consulenze, le parcelle dei vari intermediari che si stanno affastellando in questa vicenda, e vedere che cosa succederà alle partecipazioni di tutti i soggetti che sono oggi nel Fondo Atlante. Perché le banche hanno, secondo me, saggiamente svalutato. Le fondazioni bancarie no. Quindi vediamo che cosa succede. La cosa secondo me interessante è che questo salvataggio all'italiana poteva essere un modello, ma si è riempito di tanti soggetti, per cui non lo sarà. Senti, proprio in questi giorni a Bergamo, cambiamo pagina, argomento, a Bergamo si sta svolgendo il festival dal titolo Fare la pace. Alessandra Fiori ha intervistato Don Giuliano Zanchi, che è il direttore scientifico di questo festival. A Bergamo, fino a domenica, c'è la nuova edizione del Bergamo Festival Fare la Pace, dedicato quest'anno al tema Paure locali, risposte globali, il coraggio di progettare il futuro. Storici, studiosi, intellettuali, politici e giornalisti dialogano e si confrontano con il pubblico per capire come sia possibile costruire la pace in un mondo dominato da nuove paure e nuovi conflitti. Ecco, Don Giuliano Zanchi, direttore scientifico del festival, tra incontri, seminari, proiezioni e concerti, il filo conduttore è il coraggio di pensare un mondo senza conflitti. Ma perché ci vuole coraggio a pensare alla pace? Perché per fare la pace bisogna costruire bene la società, e per costruire bene la società ci vuole il coraggio di progettare in vista di un futuro lungo e non semplicemente sotto la pressione di, appunto, di timori, di inquietudini e di paure molto immediate che invece ci mettono nella tentazione di richiedere delle risposte altrettanto immediate, semplificatorie e facili. Ecco, ma è la paura una delle prime o la prima nemica della pace? È la paura, perché la paura impedisce di leggere i fenomeni con lucidità, con consapevolezza, con coscienza, e appunto in qualche maniera ci fa diventare tutti ansiosi, appunto, di risposte semplici che semplicemente in qualche maniera mettono al sicuro il recinto della nostra vita personale oppure locale, e che quindi ci fanno diventare tutti antagonisti. E invece la pace si costruisce strutturando nel migliore dei modi i legami sociali, quelli corti e soprattutto quelli lunghi. Ed è anche la conoscenza un mezzo per sconfiggere la paura? Beh, assolutamente sì, che questo è così la piccola ambizione del nostro festival, è di, per quanto possibile, lenire un po', insomma, quell'inquietudine sottile che attraversa tutte le persone dentro questo momento di grande transizione. Noi scommettiamo sul fatto che la cultura, cioè sapere meglio come vanno le cose, aiuta non a risolvere in maniera immediata le grandi questioni in cui siamo immersi, ma certamente a renderle meno inquietanti e meno paurose. Don Giuliano Zanchi, io ho visto che avete un calendario ricchissimo, ma mi indica due degli eventi in programma questo weekend? Di sicuro la conclusione che affidiamo a Mauro Ceruti, che insegna a Milano alla IULM e che è discepolo di Edgar Morin, che da sempre riflette, diciamo così, sugli aspetti sistematici, no, delle grandi questioni che abitano la nostra convivenza civile. Quindi a lui abbiamo affidato in qualche maniera un po' anche, per quanto possibile, di tirare le fila di tutte queste questioni, e quindi dire quei due o tre criteri che potrebbero aiutarci oggi a vedere più chiaro dentro la nostra nebulosa sociale e anche politica. Don Giuliano Zanchi, un'ultima domanda: ma tutti gli eventi sono gratuiti? Tutti gli eventi sono gratuiti e basta prenotarsi al bergamofestival.it. bergamofestival.it. Si entra nel sito, ci si prenota. Grazie Don Giuliano Zanchi, lo ricordiamo, il Bergamo Festival Fare la Pace, in programma fino a questa domenica 14 maggio. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS pubblicità. Mix 24. Sono le 2.53 del 13 maggio 1909 e quei 127 avventurieri non sanno di affrontare i primi chilometri di una corsa vicina a un grande azzardo. Per completare l'ordine d'arrivo della prima tappa tra Milano e Bologna ci vogliono 2 giorni, ma il giro si è messo in marcia per fermarsi soltanto in occasione delle 2 grandi guerre. Dopo oltre 100 anni e 99 edizioni, il Giro è un simbolo unificante del nostro paese. Gherardengo e Binda hanno la forza evocativa degli antichi eroi. Hanno scritto favole a pedali. Bartali e Coppi hanno diviso per passione e unito per emozioni. Magni ha sublimato il coraggio. Gimondi e Merckx hanno riacceso la fiamma delle grandi rivalità. Così Moser e Saronni. Poi la tenacia di Hinault, l'ultimo dei giganti, l'eleganza di Indurain, l'esuberanza di Re Cipollini e la dolcezza di un eroe tragico come il pirata Marco Pantani. È la corsa che pedala nella nostra fantasia, perché quell'amore infinito, quel filo rosa che unisce la nostra storia e il nostro paesaggio, continui a raccontare parabole straordinarie di uomini straordinari. Questo è lo spot per il 100° Giro d'Italia, partito venerdì scorso, dopo il giornale radio naturalmente, una puntata dedicata alla storia e ai protagonisti della più famosa manifestazione sportiva italiana. Mario, c'hai ancora una bolletta al volo? Sì, andiamo fuori dall'Italia, almeno vediamo come va veramente il mondo. Allora Giovanni, molto rapidamente, gli Stati Uniti hanno deciso di armare i curdi, cosa che non interessa ovviamente le prime pagine dei giornali, ma in realtà ha un effetto micidiale su tutto il grande gioco che si sta svolgendo in Medio Oriente. E qualcuno può dire che il governo di Ankara, quindi la Turchia, sia molto preoccupata, è vero, ma c'è una collaborazione non sotterranea, perché ne abbiamo avuto notizia, tra i servizi segreti americani e quelli turchi, che fa ben sperare nella lotta al terrorismo. Quindi, come vedi, e come tu ben sai, avendolo raccontato per tante volte e tanti anni nelle tue trasmissioni, nel grande gioco del Medio Oriente le cose non sono mai... Non sono mai come si vedono. Si vede, come sì. Si vede. Sempre, sempre qualcosa dietro le quinte che aiuta a capire se lo si conosce. Adesso, esatto, col professor Roberto Bernabei commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina. Le frontiere della ricerca. Lancet, marzo 2017. Spiegazione dell'aumento recente della mortalità. L'aspettativa di vita ad oggi in Italia è di quasi 86 anni per le donne e di quasi 81 per gli uomini. Ed è una sorta di specchio sociale, riflette il benessere generale della popolazione. Di fatto siamo tra i paesi al mondo che hanno la maggior aspettativa di vita. E ripeto, è un chiaro indicatore del benessere sociale della popolazione. Nel mondo occidentale questa aspettativa di vita è cresciuta stabilmente negli scorsi due secoli, ovviamente per le migliori condizioni di vita: si soffre meno fatica, si soffre meno il caldo e meno il freddo, ci sono stati interventi di sanità pubblica per cui l'igiene generale è molto migliorato e naturalmente le scoperte della medicina e i progressi che ha fatto. Solo la spagnola nel 1918 e la caduta del muro nella Russia hanno bruscamente diminuito l'aspettativa di vita. Oggi negli Stati Uniti c'è una diminuzione dell'aspettativa di vita per la prematura mortalità di alcune classi di età, in particolare le donne bianche tra i 25 e i 30 anni, che hanno avuto una significativa diminuzione dell'aspettativa di vita. Quali sono le cause legate a questa diminuzione? Vengono citate dall'articolo il consumo di droga, le malattie epatiche, la cirrosi ed il suicidio. Naturalmente i ricercatori insistono su una migliore assistenza medica per gestire soprattutto le malattie e evidentemente assistenza psichiatrica per prevenire il suicidio, ma l'editoriale di accompagnamento ricorda lo specchio sociale di cui parlavo all'inizio e quindi, come per riconfermare un'aspettativa di vita anche in questa classe di età delle donne bianche tra i 25 e i 30 anni, bisogna andare a spiegazioni di macro livello e sollecitare cambiamenti socio-economici di rilievo che le aiutino. E per chiudere, Gloria Guerrera, cosa ha scelto per noi oggi? Oggi una canzone per chi combatte contro un'intera economia in crisi per vivere solo una vacanza d'amore. Svalutation, cantata da Clementino. E la benzina ogni giorno costa sempre di più. E la lira cede e precipita giù. Svalutation. Svalutation. Cambiano i governi, niente cambia lassù. C'è un buco nello Stato dove i soldi van giù. Svalutation. Svalutation. Io, amore mio, non capisco perché. Cerco per le ferie un posto al mare, non c'è. Svalutation. Svalutation. Col salario di un mese compri solo un caffè. Gli stati son gremiti, ma la grana dov'è? Svalutation. Svalutation. Ma siamo in crisi, ma senza andare là. L'America è qua. In automobile a destra da 30 anni si va. Ora contro mano vanno in tanti, si sa. Che scontration. Che scontration.